parlando con te, forse non l'hai capito, apri quegli orecchi, non sei per niente bella, nemmeno spiritosa, a volte sei noiosa. Ehi, smetti di truccarti, tanto non cambia niente, niente, rimani sempre quella, quella che non capisco, anch'io non mi capisco, non so spiegarmi perché. Perché ti amo, perché ti amo, parlo male di te, dico che sei fredda, lo dico a tutti quanti e tu non ti vergogni, porti sempre vestiti che usa anche mia nonna e con i tacchi a spillo non sai camminare, però ti amo. Però ti amo, però ti amo, sì, però ti amo. Nonostante le tue gambe poco fini, sono geloso come un pazzo, ammazzo chi ti guarda. Nonostante i tuoi capelli, non saprei dare un colore, ho già voglia di giurarti che ti amo, ti amo, però ti amo, sì, però ti amo, ti amo.